commissione. Allora ci troviamo in trasporto, siamo messi d'accordo, a un certo punto non entra lui, sono trasporto, ma via, fai e non ci uscire con quel troscio, faccia a me, e io lo ripeto da sempre, mi ha aggiudito tutti i cuori che... Non c'è qua. Facciamo un bel realizzato, mi dice, non ho letto questo momento del pigiama. Allora, dimmi com'è, che colore è il pigiama, di che sia lo colore. Piano piano, dice, di prima le calze, poi i pantaloni, e poi piano piano, dice, il pezzo. Ma salita, chi è entrato?